Siamo in collegamento con la Sardegna, in questo caso con Mariella di Gettiamo le Basi. Intanto un saluto a te, Mariella, ci senti bene? Sì, sì. Benissimo. Senti, noi volevamo cominciare a parlare insieme a te dell'iniziativa della manifestazione nazionale che si terrà il 13 settembre. C'è ancora tempo, insomma, ce ne occuperemo a lungo da qui nei prossimi 10 giorni. Però, insomma, anche per preparare chi ci ascolta, vogliamo farti un po' presentare questa iniziativa e soprattutto il contesto e le ragioni per cui nasce questo appuntamento del 13. Sì. Posso parlare? Sì, sì, sì, sì, sì, sei in linea perfettamente. Diciamo che è un proseguo, perché per noi sono abbastanza normali queste manifestazioni. È un proseguo della prima manifestazione che abbiamo fatto agli inizi di luglio, quando appunto si è cominciato a parlare dei di Israele, Gaza, eccetera. Allora non si sapeva ancora che sarebbero poi venuti ad esercitarsi in Sardegna, per cui la cosa è partita immediatamente, appena si è saputo che ci saremmo trovati noi. Lo diamo per scontato: Israele è cliente abituale dei poligoni sardi, che sono aperti a chiunque paghi per sparare. Una costante, per esempio, è che quando c'è Israele la Svezia rifiuta di fare le esercitazioni, perché Israele è stato belligerante. Quindi la Svezia è l'unico paese che si attiene alla normativa internazionale del divieto di collaborazione con uno stato belligerante. L'iniziativa nasce, uno è l'iniziativa contro l'occupazione militare della Sardegna. L'ultimo episodio di quello che comporta l'occupazione militare della Sardegna è di ieri. Hanno sparato nel poligono di Capofrasca, boato, colonna di fumo gigantesca, la forestale che cerca di entrare per spegnere l'incendio, divieto di entrata, nonché divieto di accompagnarli nell'area, perché lì ci sono dei punti estremamente a rischio dato l'accumulo di inesploso. E l'incendio ha distrutto 25 ettari di macchia mediterranea. Questo è l'ultimo episodio che oggi è sui vari giornali. Quindi per noi l'occupazione militare, i danni sono permanenti. Il processo di Quirra, che ha documentato la devastazione ambientale e sanitaria, ha avuto una certa risonanza persino a livello di penisola italiana. In Sardegna è seguitissimo, chiaramente. Quindi tutti i motivi per dire no alle basi della guerra. Non per noi è non solo perché distruggono l'ambiente, non solo perché stanno provocando il lento genocidio del popolo sardo, non solo perché ci stanno strangolando economicamente, ma anche e soprattutto perché pensiamo ad un modello di difesa un po' meno, decisamente meno irrazionale. Perché la storia della se vuoi la pace prepara la guerra, questo modello inventato dai romani e prima di loro anche da altri si è dimostrato fallimentare. Cioè il fallimento totale, che dura 2000 anni e cercano sempre di riproporlo. Quindi la motivazione era questa. Il fatto della contemporanea del contemporaneo massacro del popolo palestinese, forse per la prima volta ha fatto capire ad un numero più vasto di persone a che cosa servono i poligoni. Servono per ammazzare i palestinesi, per ammazzare gli afghani, per ammazzare gli iracheni. Insomma, magari ci versavano due lacrimucce, cioè, quando c'erano gli eccidi. Però quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che la Sardegna, liberando se stessa dal ruolo di madre di tutte le guerre, palestra permanente di guerra, contribuisce a liberare l'umanità dall'incubo della guerra, perché senza l'apporto della Sardegna nessuna guerra sarebbe tecnicamente possibile nel Mediterraneo. Il ministro lo dice con altre parole, dice che i poligoni sardi sono irrinunciabili perché verrebbe meno la capacità operativa dell'Italia e della NATO. Diciamo la stessa cosa, certo che abbiamo obiettivi completamente diversi. Sì. Il ministro dice quindi i poligoni devono continuare ad opprimere la Sardegna, noi diciamo a maggior ragione proprio per questo motivo fondamentale se ne devono andare. Senti, quindi teniamo presente il dato nudo e crudo, il demanio militare in tutta Italia ammonta a circa 40.000 ettari, noi ne abbiamo 20, di questi 24.000 sono in Sardegna, gli altri 16.000 sparsi nel resto dell'Italia, dalle Alpi alla Sicilia. Quindi più della metà. È tutto adibito per appunto poligono. La parola poligono in italiano è neutra, dice, è più indicativa l'espressione in inglese bombing test areas, decisamente da bombardamento e da sperimentazione. In spagnolo li chiamano campos de bombardeo, chiaro che non servono solo a distruggere e devastare una terna, però le immagini di piazza hanno reso noto a che cosa poi è funzionale il bombardamento della Sardegna. A noi ci lascia un bel po' di leucemie, ma questo è effetto secondario. Quindi questa è un'iniziativa, diciamo, che nasce con l'occasione di quanto è successo a Gaza, ma che in realtà ha una rilevanza. Sono stata un poco chiara. Sì. Per noi è abbastanza normale organizzare delle manifestazioni di protesta davanti ai poligoni, a prescindere da Gaza. Infatti, come spesso succede, agli inizi di luglio c'era una manifestazione a Decimo, è vero che Israele stava già bombardando Gaza, però sono manifestazioni, chiamiamole in un certo senso, stabili purtroppo. Questa volta, diciamo, la rabbia è ancora più esplosiva, ha contagiato settori molto più vasti, proprio perché era, come dire, scatenata da quello che si vedeva che stava succedendo a Gaza, per cui è contro le esercitazioni israeliane. Un successo l'abbiamo ottenuto, perché dice, in base all'ultimo calendario, la presenza dell'aviazione israeliana è sparita, però rimane una clausola che dice, che parla di presenza di eventuali ospiti NATO, per cui da vedere se ci rientra. Diciamo che anche questa è una costante storica, che quando la gente si muove, quando c'è aria di adesso basta, stranamente l'obiettivo sparisce. In questo caso era no all'aviazione israeliana, in altri casi è stato fuori la Ius Nesi dalla Maddalena, e viene presentato, c'è un'onorevole via di fuga che viene presentata come decisione autonoma dell'aviazione israeliana, decisione autonoma degli Stati Uniti, alquanto irrazionale perché non suffragata da niente. E l'importante è che non sia chiaro che la mobilitazione popolare riesce ad ottenere dei successi. Questa è la bestia nera, questo deve sparire. L'onorevole via di animico che fugge si fanno ponti d'oro, il ponte d'oro ce la vesmano, non abbiamo mai pensato di venire in Sardegna comunque, e adesso bisogna vigilare se rientrano come ospiti in atto. Certo. Cioè, sono le due diciamo che il bombardamento di Gaza è stata la scintilla che ha coinvolto settori molto più vasti di quelli che tradizionalmente contestano la presenza militare in Sardegna. Sei stata chiarissima, ma cioè, le abbiamo sempre fatte, tra l'altro, con Sardegna-Palestina, normale, perché sì, in questo periodo Israele c'è sempre, in quelle che si fanno in questo periodo, fine settembre, inizio ottobre, e sono anni che facciamo le manifestazioni con Sardegna-Palestina davanti alle basi militari coinvolte. Però in questo caso, diciamo, c'è stato un eco maggiore, insomma, fuori dalla Sardegna, anche in considerazione soprattutto la stampa, perché l'indignazione per l'ospitalità concessa ad uno stato assassino ormai ha invaso persino le pagine dei giornali tradizionalmente di destra, un po' meno i media che fanno riferimento alla sinistra, strano, no? Beh, ormai insomma non ci stupiamo più di niente in questo paese, per cui diciamo è tutto molto curioso, ecco. No, vabbè, la sinistra deve ottenere l'accredito di affidabilità, la destra non ne ha bisogno, per cui si può permettere persino di essere alquanto critica. Sì, beh, insomma, sul concetto di affidabilità potremmo andare avanti da qui fino a stanotte, lo sai meglio di noi. Va bene, Mariella, ti ringraziamo moltissimo, anche perché insomma ti abbiamo preso in un momento un po' complicato, e credo che sei stata molto molto chiara nella tua spiegazione. Fra l'altro i dati, diciamo, sulla quantità di ettari occupati da poligoni militari nel nostro paese e la percentuale di questi poligoni che si ritrovano in Sardegna, diciamo, parlano abbastanza da soli. È un tema di cui abbiamo trattato tante volte. Posso chiedervi una cosa? Certo. Seguite con una certa attenzione il processo di Quirra. Prossima udienza sarà il 23. Uno, è la prima volta che la magistratura rivolta un poligono come un calcino, che parla di disastro ambientale. Sono stati rinviati a giudizio 8 generali e è chiaro che i tentativi di minimizzare il tutto per ridurlo ad un processo per mancata recinzione e omissione di cartellonistica sono forti e potenti. Pertanto credo che soltanto con una forte attenzione da parte dei media, da parte dell'opinione pubblica, si riesce, anche se in minimale, portare avanti questo, che è un fatto veramente eccezionale, non è mai successo, non ci risulta che sia mai successo in Europa e forse neanche nel pianeta Terra. Cioè, chiaro che la soluzione non è la magistratura, però è un dato da tenere in conto. Però vanno usati tutti gli strumenti a disposizione, va usata la stampa, la magistratura, le competenze tecnico-scientifiche, vanno usati tutti gli strumenti. Solo in un'azione sinergica si riesce a portare avanti un obiettivo. Va benissimo, Mariella, ci lasciamo con questi due appuntamenti, allora il 13 per la manifestazione e poi questa udienza del 23 si apre finalmente il processo vero, perché è stato trascinato per 2 anni in udienze preliminari, sentito. Cosa mai, che non è mai successa, anche questa abbastanza strana, e i tempi di prescrizione corrono. Certo, come al solito, però speriamo che in questo caso, diciamo, ovviamente più pressione c'è, più è facile che questi tempi vengano meno, però è necessario di tutti noi. In particolare, quando in Sardegna si dice manifestazione nazionale, normalmente intendiamo manifestazione nazionale, si intende manifestazione nazionale sarda. Certo. Questa volta è andata non solo oltre l'Italia, perché la stanno pubblicizzando persino i bambini palestinesi, è andata ben oltre il nazionale a livello di attenzione. quindi insomma dà anche l'idea di quanto sia importante starci e di quanto sia importante darle notizie. È la connessione, è aver capito questa connessione. Guerra è addestramento alla guerra, sperimentazione delle armi della guerra. Ripeto, senza i poligoni sardi tecnicamente non è possibile nessuna guerra, almeno nel Mediterraneo, perlomeno. Sì. O perlomeno gli verrebbe a costare molto molto caro. Sarebbe molto più problematico. Questo poligono credo che sia in Sudafrica. Quindi con tutti i problemi che questo potrebbe comportare da un punto di vista logistico. Sono l'eccellenza a livello planetario. Non perché lo dico io, ma c'è il centro, lo dice il centro studi delle forze armate statunitensi, Teulada. È considerato tra i tre, dalle forze armate statunitensi, tra i tre poligoni di eccellenza a livello planetario. Ci farebbe dopo piacere avere altre eccellenze, ecco, mettiamola così, sarebbe cosa. I militari, gli stati maggiori li definiscono, sì, giustamente, sì. I gioielli della corona, corretto, solo che abbiamo una classe politica che si ostina a portare avanti vertenze cercando di dimostrare che non sono dei gioielli, ma sono dei fondi di bottiglia che non servono più a niente, quindi bontà loro, ce li dovrebbero restituire con calma, a pezzetti, cioè svertenza chiaramente persa in partenza. Certo, visti gli interessi in gioco.